Il punto di Stefano Folli. Quello che accade a Roma merita più di una segnalazione. C'è un assessore della giunta municipale, Daniela Morgante, che è stata costretta a dimettersi perché voleva imporre criteri rigorosi nel bilancio del Campidoglio, quel buco nero senza fondo che qualcuno vorrebbe risanare con qualche gioco di prestigio contabile per non perdere i soldi del famoso decreto Salva Roma, l'oggetto del desiderio e della cupidigia di tanti amministratori poco capaci. La signora Morgante aveva cercato invece di tagliare le tasse e di evitare che fossero i romani a pagare il conto del dissesto con altre tasse. Diciamo che ha agito in linea con le indicazioni della Corte dei Conti e nello spirito dei tempi nuovi. Invece ha dovuto gettare la spugna perché pare sia impossibile a Roma ridurre seriamente, non solo in modo retorico, la montagna degli sprechi. Ora del bilancio si occuperà direttamente il sindaco Marino e sarà interessante vedere come se la caverà. Il tempo dei bilanci, diciamo così, addomesticati è finito e prima di regalare altri soldi pubblici al Campidoglio, governo e Parlamento dovrebbero pensarci molto bene.